questa è Radio Oltre Po. Nell'arco delle 24 ore, solo grande musica, solo grande energia. Ascoltaci su www.radiooltrepo.com. State ascoltando Radio Oltre Po. Ed ora, in diretta con voi, il Mangia. Buon divertimento. E vai, tutti i macchinari sono accesi. Benvenuti a tutti su Radio Oltre Po in versione live con il Mangia. O con Andrea, se volete chiamarmi, insomma, con il mio nome. Siete all'ascolto, dicevo, del Mangia Show, questo contenitore che va in onda circa 4-5 volte nell'arco della giornata su Radio Oltre Po International. Vi do il benvenuto, il buon divertimento e il ben sintonizzati, come si diceva circa 20 anni fa nelle gloriose radio locali pavesi e non solo, anche italiane. Io sono Andrea e ora spieghiamo velocemente che cosa ascolterete all'interno di questo programma, questa trasmissione. Principalmente vi proporremo delle canzoni, della musica. Vorrei sottolineare una cosa: la musica trasmessa dalla nostra radio nell'arco delle 24 ore non è certamente musica protetta dai diritti d'autore, anzi tutt'altro, noi trasmettiamo musica libera su licenza Creative Commons. In pratica sono degli artisti che non hanno scelto di farsi tutelare dalla SIAE e compagnia bella e hanno scelto anche di diffondere la loro musica principalmente tramite il web e attraverso 6 licenze rendono, diciamo così, disponibile la propria opera o per la diffusione a mezzo radiofonico o anche, diciamo così, via web, o semplicemente, diciamo così, consentono il download ai propri fans che si possono ascoltare la musica comodamente magari negli iPod o nei cellulari. Questo è quanto. Ho voluto fare questo cappello introduttivo perché magari c'è sempre che si sintonizza per la prima volta e magari non sa che musica trasmettiamo, quindi è giusto ricordarlo che Radio Oltre Po trasmette nell'arco delle 24 ore solo ed esclusivamente musica Creative Commons. Questo perché ci piace un pochino variare il tema musicale, perché come ben sapete basta accendere una radio e si ascoltano le solite canzoni che girano, i soliti singoli, i soliti artisti che sicuramente sono molto bravi, però è giusto dare spazio anche alle voci nuove oppure ai talenti che non hanno alle spalle una società importante come la SIAE per diffondere la propria musica. Ora ricordiamo velocemente i nostri contatti. Abbiamo un website all'indirizzo www.radiooltrepo.com, una email se magari volete scriverci in maniera più riservata, radiooltrepo@live.it. Poi abbiamo anche il mio sito ufficiale dove che potete scrivere al sottoscritto, basta andare su www.andreamangiarotti.com e troverete il modo per dialogare con il sottoscritto, ma anche per visionare ciò che scrivo, ciò che penso nell'arco delle mie bellissime giornate. Direi di partire immediatamente con la prima canzone che apre ufficialmente anche il Mangia Show. Rifacciamo ascoltare a tutti i nuovi amici un caro amico, un artista piacentino, lui si chiama Graziano Manca, soprannominato Dark Light. Quest'oggi vi propongo la sua title track del suo nuovissimo album. Il titolo di questa canzone è Ombre sulle stelle ed ha anche il titolo all'intero album che potete scaricare, ascoltare e diffondere su www.yamendo.com. Benvenuti a tutti all'interno del Mangia Show e ora spazio alle note stupende di Graziano Manca al secolo Dark Light. Questa è Ombre sulle stelle. La notizia sensazionale della settimana è sicuramente le due manifestazioni che si sono svolte in questi giorni, una denominata Se non ora, quando più di 1000 in piazza della Vittoria a Pavia, più di 1000 donne in piazza della Vittoria a Pavia, mosse da un obiettivo comune: siamo qui per difendere la nostra dignità, hanno urlato il megafono. Le ragazze del movimento erano tantissime, circa 1000 in piazza della Vittoria a Pavia. Per par condicio, sicuramente sarete informati che è stata organizzata anche un'altra manifestazione invece a sostegno del Premier, perché a mio avviso questa manifestazione, insomma, per dirla con parole povere, mi sembrava una manifestazione molto molto anti-Berlusconi, così a mio parere. E anche i seguaci di Berlusconi hanno organizzato una manifestazione molto colorita nella città di Milano, in un teatro mi sembra, dove sono state sventolate delle deliziose mutande da uomo e da donna, per dire insomma che il mercato è in crisi, però le mutande vanno sempre alla grande. Ora abbiamo il Rain, la notte e la benzina, estrapolato sempre dall'ultimo album dei Rain, oserei dire fantastico. Della benzina, delle automobili incendiate che usavamo per liberarci dalla TV. Sarà l'ombra degli alberi a sera che porta quel dolore strano di cose andate a male, di nostalgia. Dei bicchieri di vino in certi pomeriggi di luce, scambiati per gli abbagli di un sogno non mio. Saranno macchine per il consenso con cui faremo dischi migliori e monumenti di cemento in periferia. E la notte, la notte, la notte, e la notte, la notte qui a casa mia. Il fiume dietro gli argini volava, carico dei sogni di ieri, abbandonati sulle montagne troppi anni fa. Il palazzo dietro l'angolo è accerchiato, alzassi le mani, vorrebbero farmi firmare una resa non mia. E la notte, la notte, la notte, la polizia. E la notte, la notte, la notte, qui a casa mia. E la notte, la notte, la notte, l'ipocrisia. Stanotte, stanotte qui a casa mia. Questa è Radio Oltre Po, nell'arco delle 24 ore. Solo grande musica, solo grande energia. Ascoltaci su www.radiooltrepo.com. work it, work it, now, harder, faster, give it to me, tornati in onda con un'altra title track, Erotic Dream, cantare PSI Brasil. Se in precedenza abbiamo parlato della manifestazione tutta al femminile che diciamo così ci ricordavano il valore della donna in questa società sempre più maschilista eccetera eccetera, come molti pensano, ora invece per par condicio vi leggiamo ciò che ha detto brevemente Giuliano Ferrara nella sua testata giornalistica, dove primeggia una bellissima foto della sua manifestazione che ha fatto, se non erro, a Roma o Milano, adesso non mi ricordo, forse scusate, mi sembra Milano, ma con tutte le mutande appese. E Giuliano Ferrara scrive: quando si eccede si diventa troffi, quando si diventa troffi si perde la fiducia del pubblico. La breccia aperta del porno romanzo della Procura di Milano è la bella larga, un'aggressione alla persona del nemico assoluto, il Presidente del Consiglio, sfruttando un suo errore troppo umano, una telefonata in questura ed è partita la vasta azione di spionaggio e orientamento della vita privata di un uomo. Poi l'articolo continua citando anche Shakespeare e questo è ciò che ha scritto Giuliano Ferrara nel Foglio, in questa breve articolo che poi continua, se non erro, nella pagina del suo quotidiano. Noi abbiamo letto, diciamo così, una versione di prima pagina. Stai ascoltando Radio Oltre Po. E non me ne ero accorto che era partito il jingle, scusate, ma sono cose che capitano. Dopo Giuliano Ferrara, quindi, questi sono i due argomenti che hanno di più interessato la settimana odierna. Staremo a sentire se per le prossime settimane accadrà qualcos'altro di insolito, di bizzarro. Intanto andiamo avanti con il panorama dance della radio e il panorama dance della musica reperita da yamendo.com. Sei con il Mangia Show. Der Weltraum ist erobert. Cosa sia successo rimane un mistero, anche questo brano, diciamo così, ci ha dato qualche piccolo problema tecnico. Comunque non disperate, rimettiamo la nostra basettina. Eccolo qua che arriva. Quest'oggi è la giornata degli errori tecnici. Non è colpa mia, bensì del computer che ogni tanto fa i capricci. Ripiloghiamo ancora il tutto, siete all'ascolto del Mangia Show su radiooltrepo.com. Io sono Andrea, oppure sono il Mangia. Questo programma vi permette di ascoltare della bella musica Creative Commons, ma vi permette anche di ascoltare, insomma, le nostre chiacchiere giornaliere che possono riguardare il mondo politico oppure semplicemente la cronaca e il costume italiano e non solo. Avete diversi mezzi per collaborare con la radio, se vi va, se volete interagire con il sottoscritto potete scrivermi una mail all'indirizzo della radio radiooltrepo@live.it, radiooltrepo@live.it, oppure abbiamo anche un sito personale che è quello del conduttore, www.andreamangiarotti.com. se avete qualcosa da dire direttamente al sottoscritto lo potete fare in questo blog, in questo sito che ho creato per cercare di essere più vicino possibile agli amici e alle amiche che giornalmente mi vengono a trovare sul mio blog oppure anche sul sito della radio. In precedenza abbiamo parlato di Giuliano Ferrara e della manifestazione tutta in rosa che si è svolta in questa settimana. Ora invece parliamo di musica di qualità. C'è un bel brano che ci fa ricordare il grande comandante Ernesto Che Guevara, che molti di voi sicuramente apprezzeranno o ameranno. Solitamente le persone sono convinte che magari Che Guevara possa essere un simbolo di una determinata parte politica, magari si vedono sventolare bandiere di Rifondazione Comunista, eccetera, eccetera, però ho notato in giro su un articolo che anche la Lega ha utilizzato proprio la faccia di Che Guevara per un suo manifesto, e non solo la Lega, anche se non erro Forza Nuova vendeva dei gadget raffiguranti proprio Che Guevara. Anche molti illustri giornalisti hanno definito Che Guevara una persona che non può essere etichettata politicamente, un grande comandante. E ora arriva proprio Juanitos con Samba de Che Guevara. The next speaker is the Minister of Industries of Cuba. Señor Presidente. Señor Presidente. Señor Presidente. Señor Presidente. Señor Presidente. Millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. Señor Presidente. Señor Presidente. Millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. Señor Presidente. Señor Presidente. Y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. Señor Presidente. Señor Presidente. Señor Presidente. Señor Presidente. Millones de habitantes Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. Millones de habitantes de África, Asia y América Latina, presidente, se levantan al encuentro de una nueva vida, imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y al desarrollo independiente de sus naciones. Señor presidente, millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. Era il comandante Che Guevara in questa canzone cantata da Juanitos, Samba de Che Guevara. E ora andiamo avanti la nostra trasmissione ricordando i cinema in programmazione per questa settimana. Per quanto concerne il Cinemax di Piacenza e anche il The Space di Montebello della Battaglia, sono, diciamo così, la programmazione è molto simile, fatta eccezione per qualche pellicola che a Montebello è scesa, invece a Piacenza rimane. Vediamola insieme allora, in programmazione nel cinema di Piacenza Cinemax, che vede insomma Burlesque, I Truffacuori, Sanctum 3D, I Fantastici Viaggi di Gulliver in 3D, Femmine contro Maschi, Parto con il Folle, Immature, Qualunque Mente, che rimane ancora al cinema, e Vallanzasca, Gli Angeli del Male, che potete vedere solamente al Cinemax di Piacenza, perché al The Space di Montebello è sceso già da circa una settimana. E sempre a Piacenza, al Cinemax rimane Che Bella Giornata di Checco Zelone, rimane ancora insomma in programmazione questo bel film dell'artista pugliese che quest'anno ha, diciamo così, riconfermato il suo grande successo al botteghino con questo ennesimo capolavoro molto molto divertente, Che Bella Giornata, anche se Qualunque Mente di Albanese è altrettanto carino e divertente, è un po' più, diciamo così, il film di Albanese verso la commedia trash, si rifà un pochino insomma ai mitici film anni 80 con Alvaro Vitali, così per gli argomenti un po' trattati, e poi si parla anche di politica, in specifico si parla di raccomandazioni eccetera, che come si suol dire in Italia al giorno d'oggi sono veramente all'ordine del giorno. Questi erano i film in programmazione al The Space di Montebello e anche al Cinemax, un tempo si chiamava Cinestar, infatti mi stavo quasi confondendo, al Cinemax di Piacenza. Avanti con la musica, con un bel brano dance. Thank you. sono i Ratex con Sex Drive 125. Siamo tornati in onda, questa è Radio Oltre Po, siete in compagnia del Mangio, di Andrea. Per quanto concerne la programmazione in diretta, vi ricordo che la nostra emittente propone anche programmi registrati, tipo un'ora con la musica di Dark Light, che va in onda mi pare 4 volte al giorno, dove potete ascoltare le chicche musicali dell'artista piacentino Graziano Manca al secolo Dark Light. Poi c'è anche la nostra programmazione notturna in Creative Commons Music, dove potete ascoltare della bella musica intervallata dai nostri jingle, e anche il Mangia Show all'interno della programmazione consona e odierna della nostra emittente. www.radiooltrepo.com per raggiungerci in maniera telematica, un termine un pochino vetusto che si usava all'incirca nel 1999. E niente, ora leggiamo invece un articolo estratto dal Fatto Quotidiano, quindi molti di voi penseranno questi sono veramente del Fatto Quotidiano, insomma anti-berlusconiani al massimo, però se prima abbiamo letto Ferrara, per par condicio leggiamo anche un articolo estratto dal Fatto Quotidiano che parla del Carnevale di Cento. L'organizzatore del Carnevale di Cento vuole le Puppy Girls. Conclusione: prostituzione minorile. Il giudice di Cento sta per sciogliere la riserva sulla richiesta di rito immediato per il premier. Intanto Lele Mora, il mitico Lele, indagato con lui, sta trattando l'ingaggio di tutto l'harem di Villa San Martino. Non so se sia vera questa notizia, perché quelli del Fatto sono molto, chiamiamoli così, burloni, eh. Anche se finora in pubblico le arcorine hanno raccolto solo fischi, ne hanno già, questi del Fatto già, diciamo così, ne hanno già affiliato questo nominio delle arcoline. Le Bunga Bunga Girls sono pronte a sbarcare al Carnevale di Cento. Ivano Masservisi, spero sia giusto perché sto leggendo veramente con l'iPod ed è scritto molto piccolo, patron della manifestazione, si crede l'evento è previsto per il 27. Ne stiamo parlando con Lele Mora, naturalmente, dopodiché chiarisce: non una sola ragazza, noi vogliamo tutto l'harem del presidente. L'impresario dei VIP ci sta pensando seriamente, Ernesto lui da sempre è uno dei registri di questo carnevale, poco importa che sia indagato per favoreggiamento della prostituzione. Poi continua l'articolo e niente, insomma, vogliono le e Puppy Girls al Carnevale di Cento, anche per magari illustrarsi un pochino gli occhi. E dopo questo bel brano di Ratex andiamo avanti con la musica, arriva un ennesimo grande disco, Limbo Deluxe, il titolo è Equivocados, la copertina è bellissima, ci sono dei cavalli con dei cowboy al tramonto. Te digo palpettare sto quando il mondo taglie, de nuevo volveran las cosas simples in dettaglio, se estamos derivando en un razón, locos por el dinero, la locura y ese error. La cosa principal es que se acabe esta burrada. La cosa esencial es que se destapen las caras. Somos todos unidos en la tierra en confusión, porque lo que quieren es que no exista la expresión. Equivocados todos. Derivando en un mundo sin razón, es culpa de del dinero que quemamos en el no. La cosa principal es que sigamos confiando. Buscar felicidad, fraternidad, lejos del caos. Probar seguir unidos en la tierra con pasión. Cantar con alegría todo el día esta canción. Equivocados, todos. Stai ascoltando Radio Oltrepop Pavese. Questa è Radio Oltrepò, nell'arco delle 24 ore. Solo grande musica, solo grande energia. Ascoltaci su www.radiooltrepò.com. In precedenza abbiamo ascoltato il bellissimo disco dal titolo Limbo Deluxe, erano i Equivocados, una canzone molto bella che, come vi dicevo, la copertina è accattivante, si vedono due cowboy al tramonto sul loro cavallo, bellissima, bellissima. Andatela a cercare su yamendo.com, cercate Limbo Deluxe e trovate anche questa copertina. Purtroppo è finita anche per quest'oggi. Io vi saluto, vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia. Prima però vi ricordo che se volete comunicare con noi www.radiotrepo.com oppure www.andreamangiarotti.com per dialogare con il sottoscritto, il disjockey in onda in questo momento. Vi ricordo che siamo anche su Twitter e su Facebook, basta cercarci, ci trovate e potete aggiungerci oppure semplicemente potete leggere ciò che scriviamo su Twitter. Prima di congedarvi vi ricordo che questa trasmissione andrà anche in versione podcast. Voi andate su www.radiotrepo.com, cercate podcast, i nostri podcast, e potrete riascoltare nonché scaricare l'intero programma. Grazie ancora per l'attenzione, io sono il Mangia, vi rinnovo l'appuntamento nelle nostre prossime dirette e non. Voi però mi raccomando rimanete sempre su Radio Oltrepò, perché da noi passa e gira solo bella musica, musica libera per tutti i gusti e per tutte le orecchie. Vi regalo l'ultima canzone che è stupenda, tra le mie canzoni preferite di yamendo.com, rimane senza nessun ombra di dubbio questa cattivante Crush a cantare, Jameson Young, Crush. Ciao, grazie per l'attenzione, ci risentiamo prossimamente, ciao ciao, un abbraccio da parte del Mangia e ora Crush. No one else